Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. La partenza di Neville e Nodier, che doveva avvenire subito dopo le nozze, fissate per il 31 di maggio, fu anticipata, almeno per il principe, di alcuni giorni a causa di un dispaccio che egli ricevé, così dichiarò, da Liegi. «Un affare di Stato», si giustificò sarcasticamente, e senza aggiungere altro, partì. E fu partenza non lieta, né stranamente davvero desiderata, in quanto il nemico di Elmina avrebbe voluto bere fino all'ultimo l'amara feccia della sua sconfitta e della vittoria, al contrario, riportata dalla giovane capra, come ora egli chiamava la bella signorina, ai danni del suo preferito tra gli amici, il debole e folle artista Dupré. Avrebbe voluto trovarsi là. Il giorno fissato, un sabato, non era lontano, nella poetica chiesa di Santa Lucia, ove era stabilito si sarebbe svolta la cerimonia e, confuso nella folla commossa, in un tripudio di luci, di canti e profumare di giglie di rose e anche di gelsomini, presenziare a quelle nozze odiate che si prefiguravano per lui come il funerale della propria adorata gioventù insieme a quella del diletto Albert. La bella vita di viaggi, rapimenti, entusiasmi, cavalcate e corteggiamenti era per sempre terminata. Nodier rimase a fare compagnia e porgere assistenza al giovane fidanzato, impegnandosi a restargli vicino per tutto il tempo che si prevedeva necessario, cioè fino a quando gli sposi non si fossero trasferiti nella casetta di Posillipo che Don Mariano precedentemente si era recato a visitare proprio allo scopo di studiarne qualche opportuna modifica. E qui si rende utile una piccola considerazione sulla perdita di memoria che la felicità opera a volte sugli uomini migliori. La insensata gioia dell'artista non era stata menomamente appannata dalla partenza dell'amico adorato, per non dire fino a poc'anzi venerato, al quale in questo mondo, dopo la sua bellezza, egli doveva tutto. Non una parola di rammarico, non un «peccato, avrebbe potuto essere con noi quel giorno, nulla di nulla». Forse il giovane innamorato nemmeno si era reso conto che Neville era volato via, e non se n'era reso conto anche perché Nodier, con animo veramente paterno, benché non fosse che un giovane 24enne, e anche per l'immaginaria vecchia amicizia che gli piaceva attribuire a se stesso per Don Mariano, aveva assunto lui, in tutto e per tutto, la parte di padrino e amministratore fatato che avrebbe dovuto essere del principe. E tornerà conveniente, crediamo, riferire del modo in cui si erano svolte tutte le faccende pratiche, e cioè le discussioni, se si può parlare di discussioni e non di affettuose conversazioni, tra Don Mariano e Nodier. Albert ne veniva sempre lasciato fuori, come fossero cose non adatte alla sua sensibilità fanciullesca. Circa la parte che il Belgio, ovviamente una perifrasi per alludere al munifico principe, avrebbe avuto nell'accrescimento delle sostanze patrimoniali della famiglia di Napoli. Converrà dire tutto, benché non vi fossero quasi sorprese rispetto alle ammissioni preliminari. Di Albert, di cui Nodier riconfermò la modestia della nascita, e un titolo di barone non aveva molta rilevanza, e la esiguità dei beni, il piccolo lascito materno e le quattro stanze in un palazzetto di Liegi di cui si è detto in precedenza, fu aggiunto questo, che non dispiacque a Don Mariano Civile, ma nemmeno lo entusiasmò in modo particolare, dato il suo stato d'animo assai depresso per la morte della moglie. Nient'altro che questo. Per Albert Dupré e i suoi meriti artistici era stato approvato e disposto un vitalizio di cui l'artista avrebbe goduto anche all'estero, vita natural durante, vitalizio trasferibile in caso egli fosse mancato prima della consorte, alla medesima e suoi eventuali figli. E dato che l'espressione «meriti artistici» fece sorridere tristemente Don Mariano, che non ne apprezzava il valore, Nodier parlò di una commissione già ricevuta e portata a termine dall'artista di 10 busti di vescovi belgi per il Parco Reale di Bruxelles e altrettante testine di bimbi e dame ignote per il cimitero inglese di Roma. Disse che lui e Neville, dal quale erano state messe a punto in quei giorni a Napoli gran parte di quelle disposizioni, e la cosa rispondeva a verità, in quanto il principe si era vergognato, dopo la conversazione avuta con Nodier, di avere così insanamente trascurato i doveri della praticità assunti da molti anni verso il suo pupillo, disse che lui e Neville, quindi, avrebbero curato personalmente da Liegi ad ogni inizio di anno la spedizione a Napoli delle somme pattuite tratte su banche del regno, e ciò fin quando Albert fosse stato in vita, trasferendole successivamente, ma si sperava il più tardi possibile, al nome di Elmina, e garantiva la prima di queste lettere di credito che il principe aveva indirizzato ai suoi banchieri e di cui presentò copia, la garantì con la propria onorata firma di mercante belga, cosa che non gli sarebbe venuta in mente fuori dei territori napoletani, ma in quei paesi di miraggi e imbrogli si presentava addirittura come indispensabile. E ad avvalorare in modo inequivocabile tali premesse e dichiarazioni, tolse da uno stipo chiuso a chiave, la conversazione si svolgeva appunto nella camera del mercante dove Don Mariano era venuto a trovarlo, un sacchetto di rustica tela stipato e rigonfio fino a scoppiarne di monete d'oro, più un fascetto di lingotti, anche di purissimo oro, che doveva, disse, anticipare graziosamente l'insieme di almeno 10 vitalizi, creando un fondo già disponibile ora per vari anni a favore dell'artista. E lo depose, era piuttosto emozionato, sulla mensola del caminetto, facendone brillare il contenuto dietro la trama del sacco, davanti agli occhi dell'indifferente guantaio. E fu a questo punto, mentre Nodier si chiedeva che cosa mai al mondo avrebbe potuto rianimare e rallegrare quel buon vecchio per il quale provava la più profonda simpatia, che egli si accorse che la miniatura della bimba scalza, che tanto lui che il principe avevano ricevuto in dono ammiratissimo, non era più al suo posto, sostituita da un'altra raffigurante un cavaliere in sella a un cavallo nero nell'atto di fuggire contro un cielo di incombenti nuvole temporalesche. Nel suo occhio cilestrino passò un lampo di incertezza, di smarrimento, perché egli pensò subito che Neville, geloso della figura che voleva per sé solo, era la gelosia spesso estrema, una brutta componente della sua natura, gliel'avesse sottratta. L'occhio dorato di Don Mariano espresse a questo punto, insieme a un lieve trasalimento, quasi egli avesse compreso in quell'attimo di cosa era stupito Nodier e cosa mancava e perché sulla mensola, espresse una ben consolidata malinconia. Segno che di codeste stranezze nell'atmosfera della sua casa, egli era più che consapevole da tempo e non certo allietato. «Sì», disse egli a questo punto, inutile e misera giustificazione alla spiacevolezza del fatto. Elmina si lamenta spesso della scomparsa troppo facile in questa casa di alcuni oggetti, del resto di nessun valore, e di come poi vengano ritrovati per caso in altre stanze. E di questo lei è certa, come lo sono anch'io, sia causa una domestica che noi vorremmo licenziare da tempo, ma non siamo sicuri se ella non soffrirebbe molto allontanandosi, come pure se il suo desiderio di oggetti brillanti, del resto comprensibile in ogni animo umano, non sia dovuto, piuttosto che a capriccio dispettoso o a meno innocente avidità di denaro, alle piccole ombre di un animo malato, dato che Dio solo conosce tali ombre. Comunque della perdita della miniatura sarete senz'altro mon ami, voi e Neville, che forse ha subito una stessa esperienza, ricompensati con una miniatura uguale e anche più bella. Nodier, uomo come si è visto di indole benevola e incline a subito scusare le cose malfatte o curiose di questo mondo, forse per avere semplicemente una preoccupazione in meno piuttosto che in più, e questo contribuiva alla sua bella salute, assicurò il padrone di casa che non occorreva minimamente inquietarsi per la scomparsa dell'oggetto, forse solo momentanea, e riportò la conversazione al punto in cui era rimasta, sulla dote di Albert, non solo illustrando, per così dire, i valori che aveva davanti, soppesandoli e lodandoli con scarsa finezza, ma confermando ancora in qual modo e ogni quanto tempo, seguendo le vie stabilite, sarebbe giunto a Napoli il denaro concordato. E vedendo un disinteresse così poco comprensibile nell'atteggiamento del padrone di casa davanti a tanti valori monetari, si azzardò a suggerire come sarebbe stato consigliabile dapprima depositarli in banca, ma successivamente investirli nell'acquisto di case e terreni, al fine di costituire una cospicua dote per una qualche bambina che gli sposi avessero ricevuto da Dio. «Bambina? Spero di no», fece don Mariano sorridendo, ma con una sorta di rapida pena sul viso, pena che lasciò perplesso il buon Nodier, aggiungendo subito: «Del resto, come sapete, ad eventuali ingrandimenti della famiglia basterà la dote di Elmina. Essa è cospicua. No, non è il denaro il cruccio della famiglia, se devo essere sincero», e concluse, come pentendosi, «se di crucci e non di malinconie del vivere si possa parlare». Nodier stava per chiedere, Dio sa con quale prontezza e interesse, qual è dunque, ma si frenò in tempo, perché non glielo consentì la buona educazione ricevuta, insieme al sospetto che vi fosse in quella casa un qualche delicato mistero che doleva a tutti e sul quale era bene non indagare. Tuttavia quel «bambina, spero di no», così inaspettato dalla sua mente pur così spensierata e lieta, non se ne voleva andare. Se il geloso Neville avesse ben considerato questa verità in quasi tutte le situazioni che mostrano un qualche punto non risolvibile e comunque non penetrabile al lume di logica, cosa che finora era sfuggita a Nodier e tanto più poteva sfuggire al principe né interessato né affettuoso verso quei poveretti. Se dunque Neville avesse appena riflettuto sul fatto che la curiosità non è sempre un bene, anzi, se impietosa, il massimo male, e si fosse interrogato sulla scarsa opportunità dei suoi interventi, o anche solo desideri di verità nei confronti della famiglia del guantaio, avrebbe forse deciso, come la gran parte degli uomini di buon senso, che dai dispiaceri degli altri è meglio girare al largo piuttosto che picchiare su una porta inchiodata, perché se dispiaceri di amici, picchiandovi, faremo solo danno, e se di nemici, come per lui era il Mina, eserciteremo unicamente la nostra crudeltà. Ma egli non poteva stare al largo di nulla. Benché apparentemente così distaccato, il nostro principe era la passione e l'indignazione stessa, pronta, cieca, assoluta, contro ogni fuscello che sembrasse prendersi gioco di lui, e gli parve quindi, più che suo diritto, gli parve un vero dovere, dopo una rivelazione che in realtà egli aveva cercata e provocata, intervenire contro quelle odiate nozze, riprendendo di colpo in tal modo una guerra che sembrava cessata e rompendo una tregua che, dai nuovi eventi, quali li aveva giudicati, si configurava adesso come un vero insulto alla giustizia. Non erano passati due giorni dalla sua partenza, così come aveva annunciato per Liegi e quindi Bruxelles, e mancavano dunque solo altri due giorni alle disgraziate nozze, che egli si rifece vivo al chiaro fine di renderle impossibili o molto amare, col terrificante messaggio che segue diretto a Nodier. Tale messaggio, solo apparentemente, era pervenuto dai Paesi Bassi, affidato perciò, per gli ingenui, ai più veloci cavalli di quegli stati o a qualche fantastica bufera. Da ciò che vedremo, e come qualcuno più tardi suppose, solo Caserta era il suo luogo di origine e unicamente un domestico, servo devoto del Ruscaia, riconosciuto tale dopo una descrizione dei suoi tratti somatici, principalmente dal naso pulcinellesco, ma anche dal colore giallo della sua uniforme, descrizione fatta dal gioielliere da cui si precipitò, conoscendo la firma inglese della ditta, l'infelice guantaio. Unicamente questo domestico era il latore della infernale ingiunzione. Tale domestico, che designare col nome di allocco è pura cortesia, giunto a Napoli sul mezzogiorno e ritirato dai Brothers & Company di Chiaia, uno straordinario gioiello già commissionato da Neville per Elmina e intendendo, secondo il suo rozzo talento di giovane casertano, semplificare la missione, subito si recò al pallonetto. E il tutto, lettere e cofanetto col dono, invece di dividere fra i relativi destinatari, insisté per consegnare personalmente a uno solo di essi, e non affatto a Nodier, come gli era stato supremamente raccomandato, ma alla sfortunata Elmina. Il dono era incantevole e di alto valore in tutti i sensi. La lettera, destinata a Nodier, non lo era, per non dire altro. Non era né bella né civile, e quasi vertiginosamente annullava la raffinatezza del dono con le insinuazioni e calunnie ingiuste, se non infami, che riguardavano la povera Elmina. Nei confronti, appunto, della giovane pietra, o capra del golfo, come la designava Neville, il principe si esprimeva davvero pazzo in questo modo. Liegi in maggio. Mio caro Alphonse, costi quel che costi, ovviamente mi accollo io tutti gli immaginabili danni, porta immediatamente via il nostro Albert dalla casa del pallonetto. Da fonte insospettabile, più pura del diamante, credimi altissima, posso assicurarti che corrono pericolo mortale non solo il suo corpo, ma l'anima sua stessa. Egli è perduto, ove tu, con la velocità dei raggi solari, non faccia qualcosa. Libero di disobbedirmi, ma sappi che ti maledirò in eterno se non lo strappi alla sua sorte crudele. Conta pure per l'intera faccenda e le debite spese del risarcimento morale, ma dati personaggi temo solo materiale, sull'intero mio patrimonio. Detto tra noi, il cestello che invio resti alla capra, che vi bruchi la sua vera erba. Neville. Come scorse queste parole? Senza capire. La signorina Elmina, che era in salotto con la sarta a provare l'abito da sposa, forse non raggiante, ma certo ingenuamente soddisfatta e soffusa di un vago colore di felicità e bontà, cercando nel contempo di tenere a bada l'eccitatissima Teresina e due serve giovanette che si estasiavano per le decorazioni in merletto argentato sparse sul meraviglioso velo, impallidì dolorosamente. Ebbe appena il tempo di porgere la lettera e respingere il gioiello, mentre con l'altra mano si copriva gli occhi all'innamorato Albert, il quale entrava in quel momento recando un delizioso bouquet di roselline rosa spruzzate di pallido biancospino, che si abbatté tra le braccia della più anziana delle domestiche, la fedele Ferrantina di Carlo. Il prenome vale a distinguerla da altre due Ferrantine che servivano in casa del guantaio da altrettanto immemorabile tempo, domestica che aveva preceduto con un piccolo ghigno l'entrata di Albert. «O Vergine Santa!» fu udita esclamare, secondo una versione supponiamo fedele della sarta lì presente. «E madre pietosa della gabbietta, come pago in questo momento la mia durezza per il cardillo!» Tale esclamazione era la più commovente dimostrazione della innocenza del suo cuore, come pure di qualche difettuccio di esso, o anche di non felici circostanze della sua infanzia al pallonetto. Manovrate da qualche creatura a lei ostile, ora si rivolgevano contro di lei la sua gioventù e l'avvenire stesso, ammesso che Alberto Dupré rappresentasse, senza ombra possibile di dubbio, asserzione non dimostrabile, l'avvenire della integerrima giovanetta. Oh, se il dispettoso signor Neville fosse stato presente! Avrebbe avuto vergogna di sé o solo trionfo? Così insondabile e privo di perspicacia è il cuore umano, allorché alla sua guida sono salite le ruggenti passioni. In ogni caso, non era presente.